24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8 e 19 minuti inizia la terza parte di 24 Mattino di questo giovedì 18 giugno. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Ciao Maria. Buongiorno, ciao Simone, ciao ai nostri ascoltatori. Una puntata piccola sul tutto il mondo e il paese, la rubrichina sì, che va a guardare cosa succede in Gran Bretagna e in Francia, ed effettivamente tutto il mondo e il paese. L'altro giorno il Premier Conte ha parlato di Alitalia e del progetto che riguarda ancora una volta l'esborso di denaro pubblico per la compagnia di bandiera. Ebbene, Le Figaro in prima pagina ha una notizia che riguarda la loro compagnia di bandiera Air France, che va a cancellare 8.000 posti di lavoro. Ma apparentemente, e tenete conto che il governo francese si appresta a fare una bella iniezione di liquidità a Air France, però cancelleranno 8.000 posti di lavoro, non con licenziamenti, ma con formule di pensionamento anticipato, però 8.000 lavoratori che lasceranno Air France. E questa è anche una cosa che riguarda un po' tutto il comparto del settore, perché hanno fatto la stessa cosa anche in Francia, in Germania con Lufthansa, hanno cancellato 22, sì, o vogliono, sì, cancellare 22.000 posti di lavoro per Lufthansa. Per Lufthansa. Sì. E invece, se andiamo dall'altra parte della Manica, in Gran Bretagna, il Daily Telegraph racconta che gli stessi parlamentari conservatori dello stesso partito di Boris Johnson si sono stufati e mandano messaggi allarmati per la serie: Boris, tira, apri le finestre, tira via quella cortina di ferro con la quale ti stai proteggendo. Perché guardate un po' cosa dicono i parlamentari a Boris Johnson: sei in ritardo, prendi tempo, rinvii le decisioni. Vi suona familiare questa accusa? Mi ricorda qualcosa, mi ricorda qualcosa, sì. Cara Maria. Allora, cari ascoltatori, care ascoltatrici, ci potete raggiungere come sempre al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, per le vostre voci, per gli SMS. Ci siamo, e c'è l'800-24-0024 se volete intervenire in diretta. Da cosa partiamo oggi? Dalle questioni che hanno a che fare con la magistratura. Si incrociano parecchie vicende in queste ore. L'ultima è una nomina che sta facendo discutere, quella di Raffaele Cantone alla guida della Procura di Perugia, ma c'è anche tutta la vicenda dei boss scarcerati e, non da ultimo, il caso di Massimo Carminati. Anche quello ha suscitato parecchie polemiche. Buongiorno a Sebastiano Ardita, consigliere del magistrato e consigliere del CSM. Ardita, bentornato ai nostri microfoni, eccoci. Buongiorno a voi, e grazie. Maria, prego. Buongiorno, dottor Ardita. Lei ieri è stato ascoltato dalla commissione proprio sulle questioni di mafia, e da quelle partiremo tra un po'. Però la mia prima curiosità, come già anticipava Simone, è capire cosa pensa della nomina di Raffaele Cantone, che è il nuovo procuratore della Repubblica di Perugia, una nomina che ha spaccato il CSM, perché Cantone ha ottenuto 12 voti, mentre 8 sono andati a Luca Masini, attuale procuratore aggiunto a Salerno. C'è stata questa spaccatura perché? Perché alcuni magistrati, segnatamente Nino Di Matteo, hanno fatto notare che Cantone era stato molto vicino alla politica, nominato ai tempi del governo Renzi alla presidenza dell'ANAC, era stato anche protagonista del viaggio, quello che portò un po' di italiani eccellenti, Bebe Vio, il regista Sorrentino, e c'era anche lui, anche Cantone, alla Casa Bianca da Barack Obama. Ma insomma, per Di Matteo e per altri magistrati, nomina inopportuna perché Cantone troppo vicino alla politica. Per giudicare dei magistrati, cioè quelli romani, che vicinissimi alla politica per ovvie ragioni sono, lei che idea si è fatto? Ma guardi, c'erano due ottimi candidati, non è un modo di dire, due colleghi che conosco personalmente, tra l'altro siamo tutti dello stesso concorso, cioè io, Di Matteo, Cantone e Masini. Questa è una circostanza molto singolare, ci conosciamo molto bene. e sono entrambi due ottimi, bellissimi magistrati. Può avvicinare la voce al microfono perché non la sentiamo bene. Noi abbiamo votato per Masini perché abbiamo ritenuto che Masini avesse un'esperienza, al di là dei ragionamenti che pure sono stati fatti sugli incarichi politici, sugli incarichi non politici, ma comunque espressione di una volontà politica, ministeriario. Del collega Cantone. Ardita, mi scusi, una precisazione per gli ascoltatori, poi la faccio concludere. Quando dice noi abbiamo votato, parla della vostra corrente, no? Del nostro gruppo di autonomia e indipendenza, sì. Che abbiamo espresso una posizione sul punto, ma al di là della circostanza, cioè del fatto che ci fosse stato un incarico importante, istituzionale più che politico, direi, tra l'altro svolto molto bene da Raffaele Cantone, il problema principale era l'esperienza specifica di Luca Masini, che aveva per anni retto, per mesi retto l'ufficio di procura di Salerno, per anni era stato sempre pubblico ministero, aveva svolto direttamente queste funzioni in più procure, e poi soprattutto aveva un'esperienza specifica nei processi che riguardano magistrati. Quindi ci sembrava che fosse la figura più adatta, ecco, questo è stato il ragionamento principale. Poi l'incarico di Cantone, il fatto che ci sia stato questo tipo di posizione istituzionale ha un valore sicuramente, ma un valore relativo, era, diciamo, la fine del ragionamento, ecco, ma la questione, il cuore del problema era esattamente quello che sono poc'anzi, cioè il fatto che pensavamo che Masini avesse più titoli sul piano della esperienza specifica, ma pur essendo entrambi due ottimi candidati. Sì, sicuramente un ottimo procuratore di Perugia. Qua tra l'altro oggi il Fatto Quotidiano, non so se l'ha visto, no? A pagina 5 riporta un po' delle chat, e in una delle chat, delle famose chat, Palamara dice: Cantone a Perugia è assolutamente da evitare. Beh, una buona ragione forse, sì. Visto quello che è successo per averlo là, forse. Che dice? Ma dico sempre che queste le frazioni di comunicazione vanno sempre lette con molta attenzione, senza, diciamo, attribuirvi poi un significato, come dire, definitivo. Dovrebbe dire anche il fatto che Masini, per esempio, in questa chat non c'era proprio del tutto, ma non è questo il punto, ecco, non è questo il ragionamento. Questi magistrati sono tali da avere curriculum importanti, e rispetto ai quali una frazione di espressione in una chat può contare ben poco in un senso o nell'altro. Sono due candidati di ottima qualità, di ottimo spessore professionale. Ripeto, Cantone, dal nostro punto di vista, era meglio mandare Masini, ma Cantone è un ottimo magistrato, sarà benissimo a Perugia, sarà ben procurato. Senta, dottor Ardita, questa nomina arriva, peraltro, proprio in limine limitis, all'ultimo momento, perché poi, se passa il provvedimento voluto dal ministro della giustizia Bonafede, il passaggio da incarichi di nomina politica alla magistratura e poi di nuovo incarichi, insomma, questi passaggi che vanno e vengono non ci saranno più, giusto? Sì, c'è una proposta di riforma in questo senso, ma è abbastanza articolata. Riguarderà essenzialmente le candidature in politica, gli incarichi istituzionali non credo che siano disciplinati in questo modo. Comunque c'è un problema di passaggio ovviamente da una all'altra funzione, anche se ci sono funzioni che poi la ruolo. Ci dicono gli ascoltatori, Ardita, che non si capisce praticamente niente, si capisce pochissimo. Lei ha un auricolare per caso o no, qualcosa di questo genere? Purtroppo no, qui no, anzi, a me sarebbe meglio, teoricamente sarebbe meglio senza auricolare, no. Però provi a tenere la bocca più vicina alla parte del microfono e vediamo un attimo se regge meglio. Prego. Dicevo che dicevamo che questi passaggi dalla politica alla magistratura ovviamente vanno regolamentati, anzi, secondo me sotto questo profilo la riforma è molto opportuna. Ma qui non è questo il problema, questo non credo che fosse uno di quegli incarichi per i quali ci sarebbe stato un possibile sbarramento in termini assoluti, perché comunque è un incarico istituzionale. Si parlava invece degli incarichi direttamente in politica, quindi le attività svolte in Parlamento, oppure la possibilità di essere nominati sindaci o componenti di giunte comunali o regionali. Quelle sarebbero state le ipotesi disciplinate dal nuovo testo di legge, così come l'ho letto, almeno dalla nuova proposta di legge. Ardita, la vorrei portare su un altro argomento, che il primo è quello della scarcerazione di Massimo Carminati. È oggettivamente una cosa che ha colpito tutti e impressionato tutti, insomma, l'idea che ci possa essere dietro un ritardo nel deposito delle motivazioni, no, ha oggettivamente lasciato tutti perplessi. Come giudica questa vicenda? Come la legge? Ma guardi, quello che conta in questi casi è anche come la leggono i cittadini della vicenda del genere, perché io la potrei leggere in termini prettamente giuridici e dirle che ci sono stati dei termini, però è stata modificata l'imputazione e dunque in qualche modo la responsabilità diciamo si attenuano, ma non è questo il punto. Abbiamo un sistema che o è farraginoso di suo e impedisce un'esecuzione penale piana. Se lei legge le norme sull'esecuzione penale, sono fatte da principi e da deroghe, poi da deroghe del principio, poi nuovamente da deroghe. È diventato un testo nel quale non si capisce più nulla, perché naturalmente ognuno cerca poi di ammorbidirlo, di irrigidirlo a seconda di categorie di reati. È chiaro che occorre una riforma che renda più semplice tutto il sistema penale, perché i cittadini comunque non lo capiranno questo fatto. La circostanza che un personaggio ritenuto pericoloso venga scarcerato per motivi di forma è incomprensibile per i cittadini. Quindi una riforma va fatta a livello sostanziale. È un sistema penale che in questo momento in Italia è sofferente. Dall'inizio fino alla fine ci sono moltissimi reati e si paga per pochissimo, per nulla, tutto è reato e per nulla si paga molte volte, per molto poco si paga. E poi c'è un sistema penale che ultimamente è andato in crisi nel suo elemento centrale, cioè nell'esecuzione penitenziaria. E questo ovviamente anche qui disorienta i cittadini, cioè sono usciti moltissimi boss, ma proprio si dà l'impressione proprio che non tenga il sistema, questo è il punto. Questo è il rischio che si corre. La dico brutale, ma servono sanzioni ai giudici in casi di questo genere, ai magistrati? Perché ci sono responsabilità, è ovvio che le responsabilità ci vanno incontro, le pagano. Noi abbiamo una sezione disciplinare molto rigorosa che si occupa anche di queste cose. Però diciamo l'errore umano ovviamente va punito, e non c'è dubbio su questo, senza sconti. Però c'è anche l'errore di sistema che va pure tenuto in considerazione, perché noi abbiamo un sistema che effettivamente è sbilanciato. Maria. Ma dottor Ardita, è impossibile rimuovere il sospetto che molti hanno avuto e anche qualche giornale ha evidenziato, che con il pretesto del Covid-19, che per carità ha messo anche a dura prova la sanità nelle carceri, però con l'occasione la criminalità organizzata abbia messo in campo tutta una regia per ottenere poi quelle che sono state le scarcerazioni dei boss. Questa è un'ipotesi che lei considera da vagliare o no? Sulla regia non le so rispondere, ma sul dato di fatto che sono usciti i boss, sulla base di un presupposto che non era sussistente, quello mi pare che sia sotto gli occhi di tutti, non c'è bisogno di fare nessun tipo di valutazione, è un dato oggettivo. Cioè il carcere, il Covid non si è diffuso, anche perché le separazioni del carcere agevolavano quel meccanismo appunto di blocco rispetto alla realtà della diffusione del virus, eppure ci sono stati un numero impressionante di carcerazioni. Sicuramente questo fatto è accaduto. È chiaro che la criminalità organizzata è anche rete di rapporti, finanziamenti, denaro che arriva ovviamente dalle attività illecite, che serve anche in qualche misura a pagare diciamo l'intelligenza, che possono in qualche modo sfruttare ogni aspetto della legge, no? Questo esiste la criminalità organizzata che ha dal suo punto di vista una strategia, che è quella di riuscire a sfruttare gli errori dello Stato, le incongruenze, la impossibilità diciamo di giungere a un obiettivo. Questo è il punto. Sì. E dunque è normale che sia così. Cioè, la mafia non è una realtà singola, è una realtà che ragiona anche, che ha un obiettivo di fondo e che sfrutta anche i momenti nei quali lo Stato è meno attento. Sì. Riprendendo la domanda di Maria Latella, no? Che immagino che Maria facesse riferimento anche a come è iniziato tutto questo, cioè abbiamo visto le rivolte nelle carceri e poi un paio di settimane dopo più o meno quello che è successo, e quindi l'idea di una regia un po' le persone se la son fatta. Lei ha detto nelle scorse ore occorre capire se le carceri sono ancora sotto il controllo dello Stato, è un'affermazione forte. Io l'ho detto sulla base di dati che denunciano un'impennata dei reati commessi in carcere, è un'impennata del disagio che esiste in carcere, c'è probabilmente un controllo di sicurezza che non è sufficiente, comunque è molto più carente rispetto al passato, e dunque bisogna interrogarsi, perché le rivolte non sono avvenute per caso, sono avvenute perché c'erano condizioni di sicurezza che non hanno consentito il controllo delle carceri, è molto semplice, altrimenti non sarebbero avvenute. E d'altra parte il fatto che ci sia stata una concertazione, una sorta possibilità di operare in modo sinergico, presuppone che ci sia un collegamento. Il collegamento presuppone che entrino strumenti di comunicazione che sarebbero vietati, dunque il controllo non c'è, perché le carceri si controllano anche attraverso impedire le comunicazioni di invece. Questo è il punto, ed è un punto oggettivo dal quale non ti scappa, i dati sono questi. Se vogliamo poi mettere la testa sotto la sabbia, far finta di nulla, possiamo pure farlo, però ovviamente andiamo incontro a rischi importanti. Io gliela dico così ardita, è una battuta di un ascoltatore, dato che la qualità della telefonata non è ottima, si chiede se ha un Trojan nel telefono, ma non lo so, tutto può essere. Maria, vuoi chiudere tu con una domanda? Senza il Trojan non avremmo saputo tutto quello che si diceva Luca Palamara con i suoi ospiti a cena, però vorrei chiudere con i contenuti, no? Che lei ha esposto ieri anche nell'audizione in commissione. C'è una grande preoccupazione enunciata più e più volte dalla ministra dell'Interno, Lamorgese, che con la crisi economica legata ai 3 mesi di lockdown del Covid-19, la criminalità organizzata possa rafforzarsi ancor più di quanto non sia già presente nell'economia di questo paese, nell'economia e in tanti altri settori di questo paese. Lei che conoscenza ha di questo? Guardi, sempre sono ragionamenti che si fanno sulla base di come elementi di conoscenza generale e di esperienza. È chiaro che la crisi economica comporta mancanza di liquidità, sappiamo che la liquidità in questo momento è una opportunità in più, la criminalità organizzata ha della liquidità, perché quella che proviene dalle attività illecite molte volte non può essere riversata in conti, quindi ovviamente anche questo è un rischio, perché attraverso la possibilità di avere mezzi economici mentre gli altri non ne hanno, si può conquistare terreno, si possono acquistare aziende, si può avere il controllo di attività economiche in modo indiretto, e certo che c'è un rischio, questo è sempre presente, questo rischio. Lo Stato deve contrastarlo con gli strumenti che ha, quindi gli strumenti cautelari, quindi personali, quindi reali, con tutto quello che ha. Magari non scarcerando i boss, per esempio. Certamente con questo. Questo è il minimo. Grazie Sebastiano Ardita per essere stato con noi, consigliere del CSM, consigliere magistrato naturalmente. Ardita, buona giornata. Grazie. Buona giornata. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo con Carlo Calenda. State ascoltando un programma offerto da... Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino. E ha ragione l'ascoltatrice che ci scrive: ragazzi, vi voglio bene, vi apprezzo, ma nel 2020 non si possono avere collegamenti telefonici così. Aspettiamo il 5G. Aspettiamo il 5G, ammesso che non ci sia qualcuno che lo blocca. Ammesso che non ci sia qualcuno che lo blocca. Vediamo se Carlo Calenda. Vediamo se Carlo Calenda ha un collegamento telefonico decente. Buongiorno Calenda, parlamentare europeo. Buongiorno Calenda. Com'è il suo collegamento? Ottimo, pare ottimo. Beh. Parlamentare europeo, ex ministro dello sviluppo economico, fondatore di Azione. Eccoci Calenda con il suo piano in 53 punti. Allora, io mi ricordo un dibattito che moderavo, nel quale l'allora ministro dello sviluppo economico Calenda, applauditissimo dalla platea degli imprenditori, a un certo punto si arrabbiò con i medesimi e ci fu un bello scontro. Lei è noto per essere uno che non le manda a dire, però le chiedo, tutte le proposte che Azione fa anche per venire, come dire, fuori dalla crisi che si profila, coincidono un po' con quello che ha chiesto anche ieri il presidente di Confindustria Bonomi agli Stati Generali, partendo dalla restituzione delle accise che gli imprenditori hanno già pagato? Sì, nel senso che certe volte sono d'accordo con Confindustria, altre volte non sono d'accordo con Confindustria. Attualmente le proposte che abbiamo fatto e che ieri abbiamo pubblicizzato sui giornali hanno, diciamo, il pregio di essere immediatamente implementabili. Perché quando tu dici io voglio nella mia vita il green e la grande bellezza, come ha detto Conte, c'è una frase che potrebbe dire universo quando viene letta, e non spieghi come, ecco, il foglio del come, quello è il foglio del come. Come sull'ecologia, fate impresa 4.0, ripristinate iper e super ammortamento, tutte le altre cose, impresa 4.0, e allargatela ai beni ambientali e dell'economia circolare, invece di stare a chiacchierare sul nulla. E mi pare l'approccio di Bonomi, quindi lo condivido. Quali sono le cose che si potrebbero fare immediatamente, Calenda? Esattamente tutte quelle. Tutte 53. Sono tutti provvedimenti, non sono idee, non è vorrei che il mondo fosse migliore, è vuoi fare le opere, rivedi l'abuso d'ufficio, rivedi i ricorsi al TAR in questo modo, vuoi fare investimenti ambientali sull'energia, implementa la strategia energetica nazionale, fai fare i CIP combinati a gas e esci dal carbone nel 2025 come avevamo previsto, ma devi fare i CIP combinati a gas. Cioè sono robe, vuoi fare il fondo perduto per le imprese, invece di fare quella roba allucinante che peraltro non riguarda le imprese con più di 5 milioni di fatturato, cioè tutte quelle che esportano, ridagli da pellire di novembre, sono 20 miliardi, chi ha versato, chi non ha versato perché ha evaso non si becca niente e fine della storia, cioè un mondo semplice dove le cose funzionano come per appunto impresa 4.0 che ormai è diventato il totem, perché ieri Conte, io non lo sapevo che all'epoca era avvocato, però l'ha inventata lui impresa 4.0, ha detto a Bonomi, ah, voi volete impresa 4.0, mi rubate l'idea. Ma rubate l'idea di che? L'avete demolita impresa 4.0 in 2 anni del Conte 1 e Conte 2. Maria. Senta Calenda, non pochi imprenditori, me lo diceva anche qualcuno ieri col quale ho parlato, lamentano il fatto che di fatto le banche stanno venendo incontro alle numerosissime richieste, ma praticamente concedono il credito a quelli che ne hanno meno bisogno. Certo. I settori, per esempio, come la ristorazione, stanno davvero facendo fatica. Fanno fatica perché i loro dipendenti non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione. Conosco appunto camerieri di ristoranti che da marzo non ricevono soldi e lo stipendio di marzo gliel'ha pagato il loro datore di lavoro, da un lato, e dall'altro l'imprenditore della ristorazione non riceve il credito dalla banca perché è un settore di quelli incerti, mentre i settori più sicuri i crediti li ricevono. Come se ne esce? Beh, l'abbiamo scritto e peraltro l'abbiamo proposto dal primo giorno. Primo, la cassa integrazione in deroga non funziona. Io l'ho detto a Gualtieri la sera stessa in cui è stata annunciata, perché è lunghissima e non gestisce tante al Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi gli abbiamo detto, dai carnet di permessi retribuiti che possono essere bancabili immediatamente. Dai al ristoratore per ogni dipendente 40 permessi retribuiti, 40 giornate di permesso retribuito, che lui può dare al dipendente, il dipendente va in banca e gli danno i soldi e la banca li recupera dall'inizio. Questo dal primo giorno per le piccole aziende. Per quanto riguarda il credito bancario, oggi è stato erogato il 5% dei 400 miliardi di euro. La SACE ha erogato 500 milioni su 200 miliardi di obiettivi, cioè 500 milioni di garanzie. Ora, il fondo invece va meglio, vero? Il fondo va meglio perché è più allenato a fare questo e perché c'è la garanzia del 100%. Ora, qual è il problema? Due cose. Prima, la SACE va disintermediata, bisogna levarla di mezzo perché la legge dà la garanzia, i criteri di garanzia, quindi le banche la possono fare diciamo autonomamente senza mettere in passaggio. Secondo, cosa va fatto? Va levata la responsabilità civile, eventualmente penale, del dirigente di banca che firma per affidare un'azienda. E quello nel decreto rilancio mi pare che ci sia, Calenda, no? No. C'è un'autocertificazione. Sì. Antimafia e altre cose, perché la manleva, così viene chiamata, che c'è in Germania, c'è in Francia, eccetera, i 5 Stelle non la vogliono. Capito? Questo è il problema, ma lo sanno tutti, non è che parlate con qualunque dirigente di banca, perché se tu rischi, pur con la garanzia al 100% dello Stato, di vederti aggredito dai creditori del piccolo esercizio commerciale che dicono perché hai affidato questo ristorante che sapevi essere un settore in difficoltà, che aveva bilanci in difficoltà, tu rischi di vederti attaccato. Ma perché noi non riusciamo a fare le cose banali? Lo sa tutto il mondo che questo è il problema. Dal primo giorno, Una pausa. Mattino. Maria, prego. Allora, senta Calenda, l'abbiamo detto e l'abbiamo chiesto anche ad altri ospiti che sono stati qui a 24 mattino nei giorni scorsi. Secondo lei lo scambio ipotetico tra la revoca delle concessioni a autostrade e il voto favorevole al MES è un chiacchiericcio da transatlantico o andrà così? No, andrà così, secondo me. Ovviamente è una cosa bietta, no? Perché non è che tu scambi, cioè, il tema su autostrade, hai evidenze che ci sono gli estremi per la revoca, revochi, non hai evidenze, non revochi. Non è che è oggetto di un apparato politico che peraltro può condurre a gravissime oneri per il bilancio dello Stato, e la ragione per cui non è stata fatta è che rischia anche di prendere in mezzo chi firma la revoca. Questa è la ragione vera che tutti sanno, no? Nel senso che, essendo molto relativamente fragili le ragioni della revoca, il rischio è che se Conte firma quella roba, poi lo Stato viene chiamato a dare 5 miliardi, poi il responsabile è Conte, c'è una responsabilità erariale. Però detto questo, si farà, perché il MES è indispensabile. Tenete presente che la sanità era più o meno al collasso, come noi dicevamo, di Azione a novembre, con 13 mesi che sono diventati 16 per una mammografia in media e 8 per una visita oncologica, e quindi il MES sanitario va preso, ma non solo per quello, anche perché se parlate un po' in Europa, i paesi frugali, quello che stanno dicendo, cioè i paesi che non vogliono dare fondo perduto sul recovery fund, dicono: ma scusate, se ti diamo il tasso zero per o anche negativo per gli interventi sanitari e non lo usate, che cavolo state a chiederci altra roba? Ma lei che è stato anche a Bruxelles per molti mesi, si è fatto un'idea del perché anche la Spagna o la Grecia al momento dicono no al MES? Poi magari cambieranno idea, però per ora dicono no. La Spagna cambierà idea, e la Grecia ha un problema di prestiti a lungo termine con il MES già varati, quindi è un tema molto specifico, nel senso che loro hanno già un peso di prestiti MES. Sì, perché loro l'hanno usato per il ruolo tradizionale del MES, esattamente. Anche la Spagna, però la Spagna l'ha usato sulle crisi bancarie, mi pare, per 43 miliardi, per cui hanno, come posso dire, hanno un problema di natura finanziaria reale, cioè nel senso che alla Grecia potrebbe non convenire usarlo, mentre la Spagna alla fine lo userà, pur essendo, come posso dire, essendo titubante, perché l'ha già usato per 43 miliardi sulle banche, però alla fine lo userà. Ma il tema nostro è un tema, come posso dire, la Francia, come sapete, non lo usa perché ci perderebbe dei soldi, nel senso che ha dei tassi talmente bassi che non gli conviene usarlo. Il tema nostro però è di nuovo la questione della capacità di spesa e della capacità di progettazione, perché il MES noi non è che lo prendiamo andando lì e diciamo ci serve il 2% del PIL, che è il massimo che il MES può dare. Quello che servirà è un piano sulla sanità. Questo piano sulla sanità al momento non c'è. La mia previsione è che non riusciremo mai a mettere a terra interventi per 36 miliardi. Tenete presente che quando noi parliamo della necessità che arrivino i fondi europei, ci sono 6 miliardi e 7 di fondi europei liberi senza cofinanziamento dal primo giorno della crisi, che Boccia non riesce a usare. E quindi gli europei ti dicono: scusa, ma non riuscite a usare 6 miliardi e 7 che sono vostri a fondo perduto, senza cofinanziamento, non usate il MES, ma che volete? E questo potrebbe avere un impatto appunto sulla trattativa per il recovery fund. Tra l'altro è di questi minuti la dichiarazione del commissario all'economia Paolo Gentiloni, intervistato, che dice: credo che ce la faremo a trovare un accordo sul piano di rilancio per luglio, e quindi dovrebbe arrivare. Però, come dice lei, insomma, questa questione del MES potrebbe indebolire la posizione dell'Italia in questa trattativa, mi par di capire. Questo è il ragionamento. Sì, non solo, ma voi tenete presente questo, che di fatto noi stiamo andando verso una situazione, questa è la cosa su cui nessuno ragiona, in cui se le entrate fiscali il prossimo anno diminuiscono, come diminuiranno radicalmente, perché il 2020 è stato un anno praticamente di totale recessione, no? Noi rischiamo di diventare dipendenti strutturalmente dal quantitative easing della BCE. Questo vuol dire che noi dovremmo avere un quantitative easing fatto solo per l'Italia, di fatto, nei fatti, senza il cosiddetto capital key, che già oggi è disattivato, cioè il fatto che si acquista in proporzione alle quote detenute della Banca Centrale Europea. Ora, questo è il vero tema su cui la politica italiana dovrebbe interrogarsi, perché la mia impressione è che quello che succederà è che se ci troveremo in questa situazione, a un certo punto, quando l'Europa rimbalzerà il prossimo anno, quindi crescerà molto, quello che diranno i tedeschi è: beh, ma adesso basta, non è che noi possiamo far continuare a comprare la BCE quando abbiamo una congiuntura positiva. Certo. Quindi se l'Italia ha bisogno che c'è, prenda già, c'è già una sentenza della Corte Costituzionale tedesca in questa direzione. Senta, a me ha molto colpito la sua preoccupazione, diciamo, sullo scarico a terra, cioè arrivano questi soldi, ma non saremo capaci di farli arrivare alle imprese che ne hanno veramente bisogno, alle persone che ne hanno veramente bisogno, perché c'è un tappo fatto di che cosa? Di incompetenza, di paura della burocrazia, assumersi dei rischi. Mi faccia capire. Dell'assenza della cultura della gestione. Cioè nessuno disegna i provvedimenti in Italia tenendo presente cosa l'amministrazione è capace di implementare. Perché Impresa 4.0 ha funzionato? Perché e invece, per esempio, l'industria 2015 di Bersani ha fallito? Perché l'industria 2015 era costruita su incentivi a bando, click day, ragionamenti teorici su quello che l'imprenditore avrebbe dovuto fare, eccetera. E quindi il 5% dei fondi dopo 10 anni è stato speso, cioè niente. Perché Impresa 4.0 ha funzionato? Perché è stata disegnata in modo semplice, con incentivi fiscali automatici che non richiedevano richieste di autorizzazione al Ministero. Il disegno dei provvedimenti è un disegno che prescinde sempre dall'implementazione o dall'execution, come si dice nel mondo manageriale, e quindi non funziona mai. Ma perché? Non perché solo l'amministrazione ha problemi, la burocrazia, tutte queste cose che esistono ma possono essere governate, ma perché nessuno si cura del follow up, cioè quando fa la legge nessuno si cura dei seguiti, di come farla arrivare. Non lo fa nessuno perché non c'è una cultura della gestione in questo paese. Questo paese parla solo di grandi riforme, stati generali e fascisti e comunisti, e così si perde nello Stato che non funziona più, perché è uno Stato che non riesce a pagare la cassa integrazione, è uno Stato che non esiste più. Grazie caro Calenda, buona giornata, leader buona di Azione, giornata. Parlamentare europeo. Maria, ci risentiamo domani alle 8:20 come sempre. Ciao. A domani, ciao. Simone, ciao a tutti. Con gli altri ascoltatori alle 6:30, grazie a tutta la squadra, anzi a tutta la task force, come sempre. A domani, ciao.